Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno dottoressa. Pronto? Sì, sì. Cioè, ci siamo un po'. Qua siamo dottoressa, infermiere, sì, giornalista, conduttrice. Mauro. Buongiorno, salve, ascolti, niente. Buongiorno, benvenuta. Dottoressa, grazie. Un giorno nuovo e spero che sia buono anche. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Altro che parlare di crisi, di condizioni difficili in cui vivono molte famiglie, sono tempi duri, durissimi, questo lo sappiamo bene, Deborah, e questi tempi ci rendono anche più vulnerabili, no? Di fronte agli imprevisti che in qualsiasi momento e periodo storico possono capitare. È vero, basti pensare a quanto siamo rimasti di nuovo colpiti di fronte al maltempo che ha colpito alcune zone d'Italia nelle ultime settimane. E ripensiamo così alle gare di solidarietà che in genere si attivano di fronte a questi fenomeni dal punto di vista del cuore e dei denari, con l'aiuto economico, quindi le raccolte fondi, gli SMS solidali, ma anche con la presenza e il supporto fisico. In questo caso ripensiamo agli Angeli del Fango a Genova, una presenza che oltre ad un supporto logico ne dà anche uno morale. Allora, questa è un po' la ragione per la quale con Deborah abbiamo pensato di dedicare la puntata di oggi alla generosità e di cercare un po' di sentire il polso della situazione. La crisi, come anticipato, ci ha cambiato, ma noi siamo ancora gli italiani dal cuore in mano, siamo portati ad aiutare gli altri, a farci altro, perché... questo è il passaggio. E questo è il passaggio. Allora abbiamo pensato di esplorare questo mondo, naturalmente dal punto di vista dello spirito che sta dietro all'idea di dono e di generosità, ma anche dal punto di vista più pratico. Come vengono raccolti e destinati, distribuiti e rendicontati questi fondi, queste raccolte alle quali spesso partecipiamo. Vedremo anche nell'ultima parte della nostra trasmissione che valore ha la componente mediatica e creativa nel successo di queste campagne di solidarietà. Iniziamo chiedendo a voi all'800 24 00 24 che posto occupa la generosità nella vostra vita e che cosa vi fa definire una persona generosa. Tutti noi sappiamo per esperienza diretta e indiretta che ci sono alcune persone per le quali è naturale pensare prima agli altri e poi a se stessi, sia che si tratti di acquistare un dono, regalare un sorriso, una parola o ripartire delle risorse. Ci sono delle altre persone o dei momenti particolari della nostra vita per la quale tutte queste cose diventano un po' difficili, sì, non impossibili, insomma bisogna mettersi proprio una mano sul cuore e andare avanti, un po' imporselo, farsi quasi una forzatura. Allora ci piacerebbe sapere in che momento della vostra vita state, no? Vi ritrovate in questo momento, la generosità che ho posto occupa nella vostra quotidianità. Ci sono peraltro tante campagne, anzi proprio in certi momenti dell'anno direi che si affollano e magari mandano anche un pochino in confusione le persone che vorrebbero partecipare. Allora vi chiediamo, di recente avete aderito a qualcuno di questi progetti, di queste campagne? Perché? Perché partecipate ad iniziative di beneficenza? Vi siete dati una sorta di regola su come destinare un po' dei vostri risparmi a progetti di questo genere, oppure agite spinti dall'istinto e dall'emozione del momento? E in quel caso cosa attiva la vostra sensibilità? E la crisi ha cambiato la vostra disponibilità? Vi siete informati sul dopo? Vi siete mai chiesti se le vostre donazioni siano arrivate dove dovevano arrivare? Si può dare di più, si può fare di più o continuare a fare? Nonostante tutto, la crisi rende tutto più difficile, ci ha cambiati, siamo ancora italiani con il cuore in mano, giriamo la domanda ad un attento studioso della società. In studio qua con noi abbiamo il piacere di avere Enrico Finzi. Ciao Enrico. Ciao a voi e agli ascoltatori. Benvenuto. Allora Enrico, tu l'anno scorso hai realizzato per la Casa della Carità di Milano un'indagine demoscopica, gli italiani e la carità, che hai in parte aggiornato, in parte integrato la precedente ricerca effettuata 8 anni fa, quindi siamo nel 2005. Puoi dirci se e come siamo cambiati in questo lasso di tempo? Quale Italia ne esce? Generosa, egoista, più aperta, più chiusa ai problemi di chi ha bisogno rispetto al precedente decennio? E soprattutto quanto è inciso sulla propensione alla carità degli italiani la più grave crisi economica degli ultimi anni, che ha impattato significativamente nella vita di tutti noi? La crisi ha picchiato duro anche qui. Ci sono numerosi milioni di italiani che sono stati costretti a rinunciare alla solidarietà perché semplicemente non ce la fanno e non hanno neanche tempo da dedicare agli altri. Però nell'insieme il paese resta in maggioranza un paese positivo, anima e core, come diceva il titolo di una nostra bella vecchia canzone napoletana. Per intenderci, noi abbiamo un numero molto elevato, 22 milioni di persone, considerando solo quelli tra i 15 e i 70 anni, e il 54% del totale, la maggioranza, che fanno delle cose per gli altri, che vuol dire danno soldi, ma ancora di più, e credo che conti anche di più, valga di più, dare se stessi e dedicare una parte del proprio tempo ad aiutare coloro che sono nostri fratelli nell'umanità, fratelli e sorelle nell'umanità, ma più deboli, quello che nella cultura cristiana si chiamano gli ultimi. E questo paese con il cuore in mano è ancora, malgrado la crisi, un paese dominante. Poi certo, c'è una minoranza dichiaratamente egoista. C'è chi non fa perché non può, ma c'è anche chi non fa perché non vuole. E quella che io chiamo l'Italia dal cuore freddo. E spiace dire che è anche un po' cresciuta per la crisi, ma anche per talune ideologie e culture, per esempio politiche, che teorizzano l'egoismo, che sono impregnate di umori xenofobi, che dicono nel migliore dei casi, ed è terribile dirlo a un intervistatore, ma tanto c'è lo Stato e io pago le tasse. Chissà se è vero, e c'è la Caritas e tutte le altre organizzazioni, ma nell'insieme il quadro che si prospetta è un quadro positivo. Restiamo da questo punto di vista un grande paese. Enrico, tu hai appena pubblicato da Bompiani un libro intelligente e divertente dal titolo curioso La vita è piena di trucchi, nel quale tu racconti la saga della tua famiglia nel Novecento e i tuoi ricordi di bambino e ragazzo negli anni 50 e 60. Ne ascoltiamo un breve estratto perché ha a che fare molto con la generosità. L'ingresso della stazioncina è preceduto da 3 scalini sui quali ogni giorno sta eretto e silenzioso un uomo in un lacero cappotto che stringe al petto. Non chiede nulla e tossisce. La mamma lo saluta e gli dà una moneta. Quando le chiedo chi sia quel signore, mi viene spiegato che è un povero, uno che, diversamente da noi, non ha di che mangiare. È uno shock. La scoperta dell'ingiustizia sociale. Da allora, a colazione, pane vecchio, latte e zucchero in una tazzona azzurra, non dimentico mai di prendere una micchetta di pane, quella milanese con il tettuccio staccabile, o un uovo sodo, o una mela da portare al Signore. Eccolo qua, il piccolo Enrico Finzi alle prese con le prime prove di generosità, che sono un po' le prove di volo. Siamo anche quello che doniamo, non solo quello che mangiamo. Enrico, uno psicologo evoluzionista americano ha dimostrato che i cuccioli d'uomo, a differenza di quelli di scimpanzé ad esempio, sembrano più disposti a mettere da parte il vantaggio individuale e ad aiutare generosamente il prossimo. E poi l'esempio aiuta, no? In questo, nell'imparare la generosità. Sì, io raccontando in questo libro la mia piccola storia personale, racconto anche dell'educazione alla generosità. l'indignazione che mi nasce in questo episodio, un'altra volta in cui vinco ad una fiera di paese un grandissimo orso di peluche e mia mamma, ed ero felice, e mia mamma si piega, avevo 5 anni, e mi dice: guarda il figlio di quel contadino con che occhioni ti guarda, tu hai tante cose, lui non ha niente, regalagli l'orso. Io francamente non mi ricordo se l'ho regalato per dovere o per superiore sensibilità, ricordo di averlo regalato e comunque ricordo l'insegnamento. Ecco, noi siamo generosi per natura e per cultura, lo siamo per il nostro DNA, siamo animali sociali e lo possiamo essere per cultura se fin dall'inizio trasmettiamo i valori della solidarietà, come faceva la Cassa di Risparmio delle province lombarde, che nella giornata del risparmio ti spingeva a risparmiare, ma poi si rompevano i salvadanai per aiutare gli altri. C'è un punto quasi filosofico, ma sarò brevissimo, l'identità. L'identità è personale o sociale? Beh, gli studi a cui io faccio riferimento, in parte quelli che ho condotto, mostrano che in realtà il nostro io è un noi. Noi siamo il fascio delle nostre relazioni, noi non esistiamo isolati e questa è, credo, la base biologica e culturale per il sostegno reciproco, che è anche un'affermazione di non onnipotenza. Abbiamo bisogno degli altri, gli altri hanno bisogno di noi. Siamo un po' Nico Debo, come ci scrive, esatto, il nostro amico Bracciola. Io e Deborah siamo un po' complementari. Hanno coniato un acronimo del nostro binomio ormai in onda. Posso leggervi un messaggio di un'ascoltatrice, sì, intanto, che così potrà anche dare un po' un contributo al proseguimento della nostra conversazione. Alessandra. Un'altra ascoltatrice, Manu, credo da Biella, se capisco bene la sigla appunto con cui si firma. Mm-hmm. Io e mio marito da più di 6 anni siamo donatore del sangue, volontari del soccorso ambulanza della nostra valle. Da quando sono diventata mamma ho dovuto, tra virgolette, sospendere il mio contributo, ma volendo comunque aiutare qualcuno mi sono iscritta ad un'associazione e faccio solo, purtroppo, dice, quindi anche un po' pervasa, no, da questo senso di insufficienza del suo contributo, Babbo Natale in piazza, sperando che il ricavato vada realmente dove serva, ma non vedo l'ora di ritornare attiva con l'ambulanza. Che ci suggerisce, Nicoletta, secondo te, questa storia? Beh, ci suggerisce ci dà tanti spunti, tra l'altro noi abbiamo parlato tante volte anche di volontariato, arrivano Vero. Anche dei messaggi di ascoltatori che ci stanno scrivendo, come ha anticipato anche Enrico Finzi, ci sono anche persone che donano il sangue, ci sono anche, ricordiamo, sono veramente un gruppo, tra l'altro, molto fedele, che ascolta Cuore, sì, Denari con il cuore in mano, come si dice, a cui abbiamo dedicato delle belle puntate che salutiamo. Si dice che una persona, quando è generosa, ha il cuore in mano. In realtà la generosità non è questione di cuore, ma di cervello. Per questo non un cardiologo, ma un neurologo abbiamo invitato a Cuore Denari, ed è tornato a trovarci il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno, professore. Buongiorno, ben trovata anche tutti gli ascoltatori. Sì, insomma, cuore denari oppure cuore cervelli, no? Io mi scuso di essere ovviamente entrato nel dibattito solo adesso, di avere evidentemente mancato anche qualche passo precedente, però sentivo dire dall'altro ospite come la generosità dipenda in realtà dalla cultura, dall'età, dipende anche dai contesti sociali e dai tempi. E quindi vorrei dire una cosa prima che in termini propriamente neurobiologici, in termini così, diciamo, neurosociologici. Le persone più generose, statistica alla mano, sono quelle che guadagnano di meno. Per esempio, si è visto negli Stati Uniti che il 4,2% del guadagno di quelli con reddito inferiore ai 25.000 euro va in prodigalità verso chi ne ha bisogno, contro il 2,7% del guadagno di chi ha redditi superiori ai 100.000 euro. Ma cosa può dire un neurologo sui meccanismi propriamente chimici, neuroormonali che lo muovono? È una questione di ossitocina. L'ossitocina è l'ormone dell'abbraccio, tra l'altro è anche l'ormone dell'innamoramento tra i vari, e alcuni dicono l'ormone della fedeltà, sostanzialmente del essere attaccati, essere vicini, essere solidali all'altro. E l'aspetto meraviglioso sotto il profilo dei meccanismi d'azione è che la ossitocina, che ti fa essere generoso, ti fa stare bene perché stimola anche il rilascio della dopamina, che è la sostanza del reward, della ricompensa, e silenzia l'amigdala, che è l'area della paura. E quindi è bellissimo vedere quello che succede in questo caso. Io dono, io mi offro senza timore e con piacere. E insomma, questo rende ben conto di una serie di figure straordinarie nel passato, senza scomodare i santi come San Francesco o come Madre Teresa. La generosità dà gioia, dà piacere, dà coraggio a chi la esercita. Professor Barbanti, allora, se ho capito bene, la donna di denari che le sta parlando, l'ossitocina, l'ormone tradizionalmente riconosciuto, come lei ce lo ha appunto raccontato poco fa, come l'ormone dell'abbraccio, dell'amore, non funziona solo nelle questioni di cuore, ma si attiva anche in altri momenti ed è un ormone generoso da tanti punti di vista. Sì, c'è stato uno studio incredibile pubblicato nel 2007 su una rivista scientifica di elevato impatto, nella quale soggetti dovevano scegliere come gestire del denaro e venivano, in un protocollo molto rigoroso, fatti assumere in condizioni di cecità, cioè non sapendo cosa contenesse nel loro nel medico, 40 unità di ossitocina per via nasale oppure un placebo. Ebbene, i soggetti che inalavano ossitocina destinavano una quota sensibilmente maggiore, statisticamente significativa, come si dice, di denaro ad altri. Volevo però dire una cosa, lei ha detto la donna di denari. Di denari. In realtà la generosità prevale nella donna e nel bambino, e la spiegazione è data dal fatto che un grande antagonista dell'ossitocina e il testosterone. Allora si potrebbe dire, insomma, madre natura ingrata, un po' alla Leopardi. No, non è così, perché l'uomo, almeno nella sua vecchia storia, doveva essere risoluto e spietato e poco generoso per campare lui stesso, pensiamo all'evoluzione. Quindi è interessante vedere come la distribuzione sessuale della generosità faccia prevalere questo pregio nelle persone o in epoca pre-testosteronica, quindi i bambini, o ovviamente nel sesso femminile. Nulla escludendo il fatto che generoso lo sia anche l'uomo. Anche l'uomo, vedi che ha aggiunto, perché non lo escludo che possa esserlo, ha detto. Professor Barbanti, noi la ringraziamo per essere stato grazie. Con noi, le auguriamo una buonissima giornata. Grazie a tutti voi. Torni presto a trovarci con i suoi generosi consigli. Buona giornata. E magari anche con i neuroni specchio, che sono quelli che consentono a noi, vedendo una persona che ha bisogno, di calzarci nei panni della persona e quindi soffrire con lei, essere in empatia. E questa è la base per poter essere poi generosi. Arrivederci a tutti voi. Buona giornata, un abbraccio. Quel che mi colpisce di più è il lungo reportage di un cinegiornale, la settimana Incom cinematografica, dedicato alla tragedia del Delta del Po coperto dalle acque. Ho negli occhi due fotogrammi. Quello d'un campanile nella cui cella campanaria si vede un prete in tonaca nera e il cappello a tesa rotonda. E quello d'una casa rurale quasi del tutto sommersa. Lì attendono aiuto i contadini e una mucca, il loro unico prezioso bene residuo. Dopo quella visione, rompiamo i salvadanai e partecipiamo a una grande colletta. I valori enfatizzati dal maestro Iazzetti divengono fatti, concreti e condivisi. Stiamo ancora ascoltando un breve estratto del libro di Enrico Finzi, La vita è piena di trucchi, in cui tu racconti come si può educare alla generosità. E devo dire che molti ascoltatori ci stanno scrivendo, attivati proprio dall'esempio che abbiamo preso dalla descrizione di Enrico Finzi, bambino che va a portare l'amichetta al povero, e ci stanno scrivendo del gesti di altruismo di cui sono capaci i bambini. Sì. E sono davvero, come diceva anche il professor Barbanti, no? Cioè, donne e bambini sono naturalmente esposti. Enrico, puoi fare un saluto a Giovanni, che ci chiama da Milano, prima di andare ai mercati? Sentiamo. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci. Buongiorno. La mia testimonianza, velocissima. E dunque, siamo appena tornati da Parigi. A Parigi praticamente sono andato con la moglie e i due figli, 8 e 10 anni, siamo usciti dalla metropolitana, tornati dal Louvre e così via. E a un certo punto sulla strada ci siamo trovati di fronte a una bambina che era stata lasciata un attimino lì da sola e i genitori erano un pochettino più lontani, che stavano facendo altre cosettine. Questa bambina era lì con il bicchiere a chiedere l'elemosina. Esatto. E praticamente i miei bambini l'hanno vista, se ne sono proprio trovate girato l'angolo faccia a faccia, hanno visto una bambina come loro della loro età. E praticamente mi hanno guardato, gli abbiamo dato qualche soldino e siamo arrivati a casa, silenzio totale. E niente, a un certo punto poi il più piccolino, che è più sensibile, è esploso, ha cominciato a piangere, e allora lì a spiegargli che purtroppo, come diceva il racconto letto di quello scrittore, le ingiustizie sociali che ci sono, e che comunque con un piccolo sacrificio, certo, si può fare qualcosa. Quindi l'educazione verso l'aiuto agli altri è sicuramente una cosa, sì, è una come si impara a leggere, a scrivere, sì. Si impara ad aiutare gli altri e a fare un piccolo sacrificio, tant'è che loro stessi, diciamo, sulla paghetta settimanale, in base come vanno a scuola e così via i voti, qualche 50 centesimi, un euro, hanno deciso di metterli da parte in maniera tale che poi decideremo a chi destinarli. Esatto. Enrico, prima dei mercati, un commento da questo papà? Nessun commento, ammirazione, condivisione, ognuno le sue storie, tutte queste storie si convogliano in un fiume grande. È il dato che come sociologo rilevo, che così, per sommatoria di tanti piccoli atti, costruiamo il futuro, costruiamo le future memorie, i ricordi dei nostri piccoli, che da grande anch'essi trasmetteranno, e se posso dirlo senza arroganza, siamo Ermeio e i più, perché siamo in maggioranza. E vai! Cuore e denari. Puntata dedicata alla generosità, Deborah. Non all'Italia dal cuore freddo, ma a quella che ha il cuore caldo, perché mi è piaciuta molto questa immagine che ci ha regalato il professor Finzi poco fa, che è qui ancora in studio con noi. Sì. Allora Enrico, il professor Barbanti ci ha spiegato le basi biologiche della generosità, tu invece riesci a tratteggiarci l'identikit della persona generosa, giovane, uomo, donna, benestante, dove vive, cosa fa e soprattutto perché dona? E cosa dona? Si possono donare tante cose. Sì, quante domande. Vediamo. Le donne sono più generose degli uomini. Il sud è più generoso del nord, malgrado il minore reddito. E poi si segue l'Emilia-Romagna. I giovani sono generosi, gli adulti sono costretti dalle difficoltà della vita a essere meno generosi, poi la generosità si impenna entrando nella terza età. Anzi, qui c'è un dato straordinario che emerge dalla nostra ultima ricerca. Per la prima volta nel 2013 gli anziani che aiutano sono di più di quelli che vengono aiutati. È una ricchezza immensa, è anche un messaggio molto positivo, perché vivendo si impara ad essere generosi. Tutta la questione che anche sottopongono alla nostra attenzione alcuni ascoltatori relativa al fatto che il bene è silenzioso e non si racconta, in realtà forse qualche volta, per comunque fare delle sensibilizzazioni, è necessario che qualche cosa si dica, no professor Finzi? La mia convinzione è che bisogna parlare del bene che fanno gli altri, perché resto legato al vecchio adagio: non sappia la destra quello che fa la sinistra, per così dire. Quindi non bisogna mai ricavarne un vantaggio d'immagine. Vorrei dire una cosa magari un po' scioccante. Alla domanda perché, abbiamo fatto una ricerca per la Lega del Filo d'Oro, ovviamente gratuita, che ha dato vita a un libro, La Buona Italia. Abbiamo chiesto ai 500.000 che finanziano la Lega del Filo d'Oro, magari con un euro, due euro ogni anno, perché lo fate, e abbiamo raccolto 36.000 motivazioni libere. 36.000? Sì, un lavoraccio, tra l'altro il computer si può usare solo dopo, un lavoro fatto a mano. Per voi che avete dovuto poi decifrare, sì, questi commenti. Cioè, poi li codifichi, ma prima li devi analizzare. Ebbene, è venuto fuori che la gente fa del bene per tutti tutti i motivi e tutti opposti tra di loro, perché è religiosa e perché non è religiosa e si vive solo questa vita, perché è cristiana, perché è islamica, perché è ebrea, perché è agnostica, eccetera, perché ha sofferto e quindi capisce l'esperienza del dolore, perché non ha sofferto e quindi prova sostegno a coloro meno fortunati perché si sente privilegiata. Ma poi due punti chiave: non si dà aiuto solo per bontà, si dà aiuto anche per egoismo. Questo è il punto scioccante. Esiste l'altruismo egoistico, e cioè il far del bene anche per sentirsi meglio, sì, per rispettare l'educazione ricevuta, qualche volta perfino per far bella figura. Perché uno dei dati che emerge dalle ricerche è che donare fa bene al donato, ma non fa meno bene al donante. Mm-hmm. In questo senso il bilancio sociale è positivo e non c'è niente di male nel essere buoni senza essere santi. D'altra parte, nelle ricerche dimostrano che nel momento in cui si dona, hanno guardato che cosa funziona, certo, nella testa, nel cervello delle persone che donano, e hanno visto che si attivano le stesse aree del piacere che si attivano quando le persone fanno qualcosa che le gratifica molto. Eccoci qua. Tante persone non conoscono ancora questa struttura. C'è una gran bella famiglia, si chiama Villaggio SOS. Ti aiutano anche ad avere, cioè non ti escludono, non ti separano dalla famiglia. E gli appoggio di solito di tutte e due le parti. Giorno dopo giorno mi hanno portato comunque a prendere giuste strade, non a prendere strade sbagliate. Allora, le iniziative di solidarietà che conosciamo sono molte, lo dicevo prima, ci sono proprio certi momenti in cui anche accendendo la televisione, come dire, ci sono tante campagne che vengono reclamizzate, pubblicizzate, ed è abbastanza probabile che, sollevando per un attimo uno sguardo, ne troviate una proprio attorno a voi. Noi ci possiamo considerare delle persone fortunate, stiamo bene, ma abbiamo tante situazioni di bisogno attorno alle quali cercano di rispondere, in particolar modo il mondo del volontariato, le ONLUS, molte istituzioni. Oggi abbiamo scelto una campagna da raccontarvi, una casa piena d'amore, di cui adesso vi daremo qualche dettaglio in più, è quella di cui avete appena sentito un estratto. Probabilmente facciamo un po' torta a tutte le altre che ci stanno ascoltando. Noi abbiamo così scelto appunto di puntare un po' l'attenzione su una, ma naturalmente questo non significa che dobbiate tutti guardare lì. Ognuno di voi può, in base alla vostra sensibilità, cercare il progetto da sostenere che vi sta più a cuore. Allora, buongiorno e benvenuta a Sara Doris, presidente di Fondazione Mediolanum. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi è l'ultimo giorno in cui è possibile sostenere questo progetto tramite donazione al numero 45599. Il progetto, come stavate giusto dicendo poc'anzi, è Una casa piena d'amore, un progetto di Fondazione Mediolanum a sostegno di SOS, Villaggi dei Bambini. Si tratta di case di accoglienza che sono distribuite nel nostro territorio italiano da nord a sud, case di accoglienza per ragazzi che sono stati allontanati dalle famiglie perché si sono trovati a vivere situazioni di difficoltà, di grossa disagio, difficoltà, ovviamente abusi psicologici o fisici o quant'altro, per cui è stato necessario, gli assistenti sociali hanno ritenuto necessario trovare una nuova sistemazione per questi ragazzi, per cercare di, dove possibile, risolvere il problema della famiglia e intanto far crescere il ragazzo in una casa serena dove ci sia amore, attenzione e un ambiente sano dove poter crescere. È un progetto che mi sta veramente molto a cuore perché appunto si tratta di nostri vicini di casa, no? Nel nostro territorio, e sono ragazzi che hanno bisogno di una seconda chance, perché il fatto che uno si trovi a vivere in una condizione di difficoltà all'inizio non deve, come dire, condizionare e marchiare la vita, no? Esattamente. Quindi avere delle altre persone che per un periodo della propria vita possono non essere i genitori naturali, ma altre persone che hanno il desiderio di donarsi agli altri, come abbiamo sentito poc'anzi, mi sembra veramente un'opportunità incredibile, certo. E un qualcosa che va sostenuto da chi invece questo certo. problema parliamo non l'ha vissuto. Parliamo di ragazzi, ma parliamo di bambini. Bambini. Che età hanno? Sì, sono bambini e ragazzi, ovviamente, sì. Che vanno fino ai 18 anni di età, anche se poi ai 18 anni questi ragazzi, se ancora non è stato possibile reinserirli nella famiglia, perché come dicevo prima si fa un lavoro parallelo con psicologi, psicoterapeuti, anche con la famiglia, quindi se non riescono a rientrare in famiglia e a 18 anni sono ancora nei villaggi, ovviamente si seguono come si fa con un qualunque figlio, e quindi li si aiuta a trovare un lavoro se desiderano lavorare, piuttosto che proseguire gli studi, ed è per questo che c'è certo. bisogno ovviamente di aiuto, non solo dallo Stato ma anche da noi privati, proprio perché come sappiamo tutti i costi di una famiglia sono infiniti, sono vari, e per cui c'è bisogno davvero di contribuire. Figuriamoci, certo, di quanto denaro ha bisogno questa famiglia allargata all'interno di questi villaggi. Allora, noi adesso dobbiamo andare in pausa perché abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio. Peraltro, se ti giri, Nicoletta, abbiamo la visita di una bambini. Scolaresca, altri bambini. Oggi siamo che veramente carini. Circondati appunto avranno da questi. Avranno 7 anni loro. Chissà cosa ne pensano del tema che stiamo affrontando questa mattina. 800 24 00 24, intanto il numero verde se volete continuare ad intervenire per raccontarci un po' come la pensate su questa argomento, e poi cercheremo anche di capire i soldi raccolti attraverso le modalità che ci indicava Sara Doris, come poi concretamente vengono utilizzati, finalizzati e raccontati anche a certo. chi queste campagne le sostiene. Cuore e denari. Tra le nuvole e i sassi passano i sogni di tutti. Passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? Dove sarò? Tra le nuvole e il mare. Quanto l'abbiamo sentita questa canzone, la ricorderete, cantata da tanti artisti uniti per l'Abruzzo, canzone simbolo di un altro periodo in cui la generosità degli italiani è stata messa alla prova e si è rivelata in tante forme ed occasioni, il terremoto del 2009 in Abruzzo. Noi stiamo parlando di italiani e solidarietà con molti ospiti, Enrico Finzi, Sara Doris, presidente di Fondazione Mediolanum, e avevamo anticipato, adesso sentiremo anche gli ascoltatori che bussano alla porta e vogliono raccontarci il loro pensiero su tutto questo, ma stavamo raccontando il progetto sostenuto appunto da Fondazione Mediolanum. Ricordiamo che ogni banca ha la sua fondazione che si occupa naturalmente di sostegno ad iniziative di questo tipo, a welfare aziendale e tanto altro. In questo caso appunto, in questa fase appunto, Banca Mediolanum segue questi bambini che sono, lo dicevamo a microfoni spenti, quelli che seguite voi, 650. Esattamente, sono 650. In Italia l'area del bisogno è molto più ampia purtroppo. Sì, sono circa 30.000 i bambini, i ragazzi che sono allontanati dalle famiglie, quindi c'è una grossa esigenza sotto questo profilo di intervenire. Allora, la raccolta fatta in questo momento con il numero verde che dopo racconteremo, il numero solidale, anzi 45599, è finalizzata ad un progetto specifico o questo denaro andrà all'interno di questa casa e si manterrà, come dire, un po' il sostegno finanziario per mandare avanti questi villaggi, certo, oppure sì. c'è proprio un'iniziativa specifica che sosterrete? No, andrà all'interno di questi villaggi, come dicevo, che sono da nord a sud, e quindi noi attraverso questa campagna e anche attraverso altre attività nella prima parte del 2015 andremo a sostenere SOS Villaggi dei Bambini, per cui come dicevo prima le esigenze sono tantissime. E poi è il villaggio stesso, poi a seconda dei villaggi ci sono esigenze diverse, in uno può servire, non lo so, ristrutturare la casa, per esempio, nell'altro invece può servire per un bambino in particolare fargli fare uno sport, perché non dimentichiamoci che fare sport non è un lusso, come dire, è proprio una necessità, nel senso che attraverso il gioco, la squadra eccetera eccetera, si imparano dei valori, si imparano delle regole, si può acquisire fiducia in se stessi, quindi è assolutamente è un investimento nella salute psico-emotiva esattamente. E anche fisica. Esattamente, proprio così. Per cui sono ragazzi, sono andata a visitare queste case. Ho bruciato la domanda, volevo chiedere, è andata a visitare questi villaggi? Certamente, che è scontato. Sì, ovviamente, sono andata a visitare questi villaggi e la cosa bellissima intanto è rendersi conto di, prima visto che si parlava di donatori, di volontariato, eccetera, eccetera, quante persone ci sono che aiutano, perché ovviamente lì oltre a esserci gli educatori, gli psicologi, eccetera, eccetera, ci sono tanti volontari, perché immaginatevi, accompagni i bambini a scuola, valli a prendere, ci sono volontari che mettono a disposizione il loro tempo, sì, la macchina, no, per aiutare la famiglia in questa direzione. E ovviamente vedi dei ragazzi pieni di vita, perché sicuramente hanno subito traumi, hanno avuto grosse difficoltà, ma c'è un desiderio proprio di riscattarsi, di essere felici, di proseguire in modo diverso. E poi soprattutto una volta che sono in un ambiente dove, esatto, si sentono al sicuro, l'essere umano si rimette in gioco, sì, per cui è veramente bellissimo vedere una seconda chance, lei prima. Esatto, poi ognuno ha la sua chiave d'accesso, quindi, certo, no, con un bambino funziona un modo, con un bambino un altro, c'è chi si apre di più con una persona, con un educatore, chi con un altro. Però ecco, l'amore, che è la base fondamentale per la crescita dell'essere umano, l'amore che trovano in queste case, come sentivamo prima quell'estratto che avete ascoltato di uno dei ragazzi, è quello che proprio ridà la vita e dà anche, come dire, il desiderio di perdonare, perché a volte no, bisogna riuscire a perdonare per poter, esatto, volevo chiedere ad Enrico Finzi, prima che ci saluti, perché poi tra poco ci ritorna ai suoi dati, alle sue indagini, se nelle tue indagini hai notato, se allora, verrebbe, no, naturale pensare che ci sono delle categorie di persone a cui è più facile donare, i bambini. Quando sentiamo parlare di bambini siamo più portati, no, a mettere mano al portafoglio, a dare il nostro tempo. Altre categorie di persone magari fanno un pochino più fatica ad arrivare al cuore degli italiani. Sì, noi abbiamo sottoposto una domanda curiosa, e cioè abbiamo elencato 24 diversi gruppi sociali e abbiamo chiesto qual è la propensione ad aiutarli, e questo ha dato vita a una classifica che è interessante e per qualche aspetto anche preoccupante, perché in testa sicuramente ci sono i bambini e seguono i malati, cioè i soggetti più deboli, fragili, quelli gravemente ammalati naturalmente. Poi si scende via via e verso il fondo la classifica è preoccupante, perché abbiamo una propensione bassissima nei confronti degli extracomunitari, dei carcerati o di coloro che sono usciti dal carcere, quindi tra l'altro hanno pagato il loro prezzo e hanno bisogno di essere reinclusi, reinseriti nella società, le prostitute e così via. Allora la domanda era una domanda vigliacca, perché era costruito dicendo: lei aiuta, quali di questi gruppi sociali lei aiuterebbe trattandosi di casi molto gravi? Allora la domanda era fatta in maniera che in realtà l'unica risposta era: se potessi, chiunque, perché tutti noi umani siamo, per chi è religioso, figli di Dio o comunque fratelli e sorelle nella comune umanità e debolezza. E invece ci sono state delle differenze fortissime, il che dimostra che come dire, la cultura della discriminazione continua ad essere efficace e in fondo si infiltra nell'Italia dal cuore caldo anche qualche piccolo rivolo dell'Italia del cuore freddo, delle discriminazioni, certo, del non riconoscimento pieno dell'altrui umanità. Allora ringraziamo Enrico Finzi, con cui ci lasciamo, perché noi la certo, nostra ospite resta con noi invece. Sara Doris resta con noi, poi ci raggiungerà un altro ospite e naturalmente daremo la parola a Davide da Modena, Luciana dalla provincia di Vicenza, ai quali chiediamo solamente pochi minuti di pazienza, giusto il tempo di sentire un po' cosa è successo nel mondo nell'ultima nostro ora. Giere, ricordo a chi me lo sta chiedendo, il libro di Enrico Finzi, La vita è piena di trucchi, Bompiani editore. Grazie ad Enrico. Grazie. Finzi, buona giornata. Cuore e denari. Questo video vi spiega qualcosa di importante: come proteggere i bambini dai pericoli e dagli incidenti e che cosa bisogna fare se c'è un incidente. Tutti quelli che hanno a che fare con i bambini dovrebbero vederlo, le mamme, i papà, i nonni, le babysitter, i fratelli maggiori, le maestre. Dura solo mezz'ora. Mettetevi comodi, guardate, ascoltate. Soprattutto ricordate che certe cose bisogna proprio saperle, anche se tutti speriamo di non averne mai bisogno. Allora, noi in radio non possiamo vederlo, ma speriamo ugualmente di veicolare in maniera efficace le informazioni che contiene questo video. E tra l'altro, per veicolare bene le informazioni servono appunto anche una buona dose di creatività oltre che l'efficacia. È il caso di questo video, come vi dicevo, ne abbiamo sentito un estratto in cui si parla di bambini. Ogni anno in Italia più di 20.000 bambini subiscono incidenti e restano feriti, circa 400, sentite che cifre, muoiono per incidenti in casa e più di 1.000 restano invalidi. Ha pensato di fare qualcosa per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo, con lei che potremmo definire un po' l'emblema, Nicoletta, della creatività direi italiana. Di sì, mi piace, azzeccatissimo. Buongiorno e benvenuta ad Anna Maria Testa. Buongiorno. Eccoci qua, Anna Maria Testa, per chi non la conoscesse io do solamente proprio due righe di un curriculum lunghissimo e molto creativo anch'esso. Ha creato le campagne pubblicitarie di maggior successo negli ultimi anni, anche una scrittrice, docente universitaria, tanto per citare una delle cose che le sono state riconosciute. Nel 2012 è entrata nella Hall of Fame dell'Art Directors Club italiano, prima donna pubblicitaria negli oltre 25 anni di vita del club. Allora, 800 24 00 24, in quest'ultima parte parliamo quindi anche dell'importanza di comunicare bene le campagne sociali. Voi qual è quella che, di cui vi ricordate di più degli anni passati? Le famose pubblicità Progresso, le campagne sociali, le emergenze, le maratone televisive, tanti linguaggi diversi, canali diversi per messaggi che però hanno un denominatore comune. Quale vi ha coinvolto di più in passato e soprattutto perché? 800 24 00 24, numero verde ve l'ho già ricordato, ma come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter oppure mandarci messaggi, lo state facendo in tantissimi, è vero, oggi veramente paginate di messaggi, al 349 238 6666. E devo dire che nonostante quello che perlomeno parlo a livello personale, che pensavo all'inizio quando siamo partiti con la trasmissione, pochi scettici, ci sono molte persone che invece fanno e fanno molto appunto in termini di volontariato e solidarietà. Anna Maria Testa, allora perché il video che noi abbiamo raccontato radiofonicamente questa mattina è importante, è utile, cosa si impara vedendolo, ce lo può raccontare in breve e perché le è venuto in mente 10 anni fa di appunto veicolare informazioni di questo tipo? Peraltro poi questo video negli ultimi tempi è stato un po' riaggiornato, gli è stato fatto, come si dice in gergo tecnologico, il backup. Anna Maria Testa. Io sono nel 2002, quando tutto questo è cominciato, mio figlio era piccolo, quindi sono rimasta molto colpita come madre dai dati veramente spaventosi degli incidenti domestici. Poi ho reagito come professionista, mi sono detta che potevo fare qualcosa, e questo è stato l'inizio di un lunghissimo lavoro che è durato più di un anno, e al quale però hanno aderito e al quale hanno dato una mano 1.000 persone diverse, altri professionisti, in una specie di catena virtuosa di volontari esperti davvero molto grande e con dei risultati emozionanti. Il video è utile perché in mezz'ora, che è un tempo molto breve, racconta in maniera molto ordinata e in 3 sezioni come prevenire gli incidenti domestici in bagno, in cucina, in macchina, come stare attenti ai balconi, alle scale interne delle case, ai 1.000 veleni che si trovano in casa, che cosa fare in caso di botte, di ossa che si rompono, di colpo di sole, di calore, colpo di freddo, di febbre, eccetera, eccetera. E nell'ultima parte, con l'ausilio di un medico rianimatore, mostra e racconta come intervenire nei casi gravi, che sono pochi, ma quando si verificano, certo, bisogna sapere cosa fare e farlo subito, nel giro di un paio di minuti, cioè non si può aspettare il 118. Ecco, ha fatto bene a ricordarlo, peraltro, perché il video è stato costruito in maniera naturalmente con questo approccio creativo ma anche professionale, e a dare il contributo professionale ci ha pensato l'ospedale Buzzi di Milano. E quindi tra l'altro il video è stato proprio approvato da tutti i maggiori enti di rianimazione e pronto soccorso. Anna Maria Testa, la pubblicità si rivolge sempre ad un pubblico, no? Ad un mercato. In questo caso il mercato che facciamo facciamo riferimento è quello delle mamme, delle famiglie, ma avevate avuto davvero la percezione che ci fosse così tanta impreparazione in Italia rispetto alle emergenze che possono riguardare i bambini e la loro gestione? Ma negli altri paesi, riparlo del 2002, ma la situazione non è così cambiata, le manovre di primo soccorso, le basi del pronto soccorso si imparano a scuola, si imparano nelle comunità e così via. Da noi c'è un enorme vuoto. Questo video si propone di parlare soprattutto alle persone più semplici, alle mamme che magari non hanno un'educazione superiore e che davanti a una complessa spiegazione possono ingarbugliarsi. Non dimentichiamoci che oltre il 50% degli italiani ha difficoltà con i testi scritti e con le parole complesse, alle mamme straniere, ai nonni, alle tate. A tutti quelli che fanno fatica ad affrontare le spiegazioni mediche complicate. In questo caso io ho avuto molto più di un brief, una serie di indicazioni mediche precisissime a partire dalle norme europee. Il mio lavoro, il mio contributo professionale è consistito in tre fasi. In primo luogo nel mettere in ordine in una maniera intuitiva una serie di informazioni molto ampia e molto complessa. In secondo luogo di tradurre dal medichese stretto, cioè in medichese si dice disostruzione delle vie aeree superiori, spieghiamolo a una tata filippina. Che si dice disostruzione, certo. Ecco. In terzo luogo il contributo è consistito nell'affiancare delle immagini molto chiare, molto puntuali, non ambigue, senza nessuna velleità artistica, ma cercando il massimo della chiarezza alle parole, perché se noi vediamo mentre ascoltiamo, capiamo di più e ci ricordiamo meglio. Infatti. Anna Maria Testa, dove possiamo trovare questo video, tra l'altro, per chi adesso si fosse un po' incuriosito e avesse avuto l'immediata, improvvisa consapevolezza del fatto che di fronte magari a certe emergenze che si potrebbero anche verificare in casa propria, non ha gli strumenti per intervenire? Il video si trova pubblicato su YouTube, un modo molto semplice per trovarlo è andare sul mio sito, che peraltro si occupa di creatività, l'indirizzo è facilissimo, è www.nuovoeutile.it. Facendo scorrere la pagina, nella colonna di destra si vede un quadratino arancione in cui c'è scritto i nostri bambini, come proteggerli, come soccorrerli. Si clicca da lì e ci si arriva. www.nuovoeutile.it, è facile da ricordare. Lo mettiamo anche noi naturalmente sulla nostra pagina Facebook. E volevo sentire un commento di Sara Doris, presidente di Fondazione Mediolanum, sulla creatività e le campagne sociali. Voi avete intanto per il villaggio dei bambini utilizzato, vi siete avvalsi della collaborazione di una testimonial d'eccezione che è Alena Seredova, ma insomma è importante anche che certi messaggi, se ci mettono poi la faccia, no? Certe persone è più efficace, mi viene in mente la campagna di suo papà per la banca, ma questo certo. Non c'entra molto, oggi detto insomma un po' per rafforzare il messaggio sul fatto di mettersi, cimentarsi in prima persona su certe iniziative. Certo. E poi un'altra domanda, così che le faccio tutte e due insieme. Quando voi andate in giro a raccontare un po' il progetto che seguite e le persone vengono a conoscenza del fatto che c'è una banca dietro a tutto questo, c'è ancora del pregiudizio che, come dire, un po' vi perseguita, vi insegue, o le persone sono un po' più mature magari di come le dipingiamo, di come le conosciamo? Dunque, allora, per rispondere alla prima domanda, la comunicazione appunto per raggiungere le persone, certo il testimonial è molto importante perché è una persona conosciuta, le persone hanno un riferimento, sanno chi è eccetera eccetera, e quindi sentire una persona che ha una certa fama può aiutare. Ovviamente questo non basta, ci vuole anche una pubblicità ben fatta, una comunicazione dove si possa capire qual è il progetto esattamente e che possa arrivare al cuore delle persone, che faccia capire che dietro c'è un ente solido, che non è un imbroglio, che tutto ciò che viene raccolto viene devoluto. Quindi i 15-30 secondi delle comunicazioni, per esempio appunto televisive, bisogna davvero fare un super lavoro per selezionare e dire le cose fondamentali ed efficaci per arrivare al cuore delle persone, all'ossitocina di professor Barbanti, esatto. Direbbe. per... esatto, di cui parlavamo prima. Quindi noi, soprattutto nel mondo odierno, comunicare bene è fondamentale, perché poi siamo sommersi dalla comunicazione e quindi i messaggi si possono perdere in quel marasma di informazioni che ci arrivano quotidianamente dai media, da tutte le parti. Per quanto riguarda la seconda domanda che mi ha fatto rispetto al pregiudizio, ai pregiudizi, esatto, io devo dire che fondamentalmente all'inizio la fondazione si è fatta conoscere all'interno della nostra community, quindi giocato in casa, esattamente, insomma. Quindi con le persone, i nostri clienti della banca, i quali sono ben felici di venire a conoscenza di questi progetti, perché vedere che una banca, proprio perché prospera, si occupa del sociale, si occupa di condividere questa fortuna, questa prosperità anche con gli altri, è un qualcosa che non ha mai influito negativamente, ma positivamente. Poi io devo dire che quando tu sei sicuro, quando operi, che lo fai perché lo scopo è quello di fare del bene, se poi ci fosse anche qualcuno che lo vede come un farsi belli agli altri, non importa. Secondo me bisogna andare avanti e perseguire questa strada. Certo. Anzi, c'è un po' l'effetto emulazione. Ne parlavamo fuori onda, anche delle aziende che iniziano a donare e diventano quindi... aprono a questi progetti, e l'esempio coinvolge e aiuta anche altre aziende, altri imprenditori a seguire un po' questa direzione. Questo percorso è proprio così, perché anche noi con la nostra fondazione, che esiste dal 2002, di progetti ne abbiamo seguiti veramente tantissimi, e attraverso la fondazione tutti i progetti che si riferiscono all'infanzia, ma con la banca anche per nelle varie emergenze. Dicevamo prima il terremoto in Abruzzo, ma le varie alluvioni che ci sono state, la nostra banca è intervenuta con i propri clienti, quelli che avevano subito dei danni, aiutandoli proprio concretamente con una donazione, eccetera eccetera. E quindi insomma questo si è fatto un po' in tutte le direzioni. L'emulazione, parlavamo dell'emulazione. Esattamente, quindi è molto molto importante, secondo me, dire quello che si fa, non per farsi belli, perché questo non serve molto, no? Farsi belli non, certo. Però, come dicevamo prima, il fatto di sapere di qualcuno, un imprenditore, piuttosto che il tuo vicino di casa che ti racconta di qualcosa che ha fatto, di ciò che ha vissuto, della la gratificazione che ha sentito nel fare questo, può essere di emulazione, certo, per gli altri, sia nel bene che nel male, no? Quindi, come dicevamo anche prima fuori onda, anche la nostra banca si è ispirata. Qualche tempo fa avevamo fatto un progetto per cui durante 6 mesi per ogni conto corrente nuovo aperto veniva donato l'importo pari a un mese di scuola per i bambini di Haiti. C'era il momento anche del problema ad Haiti, che c'è tuttora, esatto, a dire il vero. Siamo riusciti a mandare a scuola 2.800 bambini per un anno, e tutto questo grazie al fatto che Ennio Doris avesse sentito che la Danone per ogni yogurt venduto devolveva un piatto di riso per i bambini. Per cui questa cosa, no, proprio senti una cosa che è fantastica. Cioè, attiva pensieri. Attiva il pensiero, ecco. Così io cosa posso fare, no? Non vendo yogurt, allora, però. Vi faccio sentire che cosa ha fatto Alba da Milano alla nascita di ogni nipote. Di nipoti ne ha ben 8. Alba, benvenuta. Alba. Pronto? Buongiorno. Sì, nonna Alba, buongiorno. Buongiorno, vi seguo sempre, la mia comunicazione sarà breve, spero efficace. Io ho 8 nipoti, il più grande 17 anni, la più piccola non ancora 6 anni, e per ogni nipote che nasceva fortunato in una famiglia, in una società come la nostra, che comunque tutte le mugugni ai bambini può dare istruzione, cibo, amore di qualità, ho adottato a distanza un bambino, quindi ben 8, tramite missionari, tramite associazioni di cui io sono, ne posso fare il controllo. Io abito in una parrocchia salesiana, quindi per lo più tramite di loro, e questo mi sembra quindi 16 nipoti, Alba. 16 nipoti. Ben 16 nipoti, quindi bell'idea. Molti di più nel tempo, perché alcune di queste adozioni sono nate con la maggiore età oppure con la fine del, del bisogno di quel bambino, anche se poi la maggioranza non aiutano il singolo bambino, esatto, ma la comunità in cui è inserito. Certo. Però è bello poi quando arriva a casa la foto del bambino che teoricamente si aiuta a crescere, no Alba? Noi certo, la appendiamo certo. Lì penso in che casa. Sia anche un bel messaggio per i nipoti di Alba. Esatto. Sì, questo sì, secondo me dà ad Alba grande gioia, ma ogni nipote di Alba sa che c'è un bambino lontano che molto probabilmente non incontrerà mai, che è un po' che il suo corrispettivo. Sì, che non è detto, sai che spesso poi si cambia, possono anche andare a conoscere, certo. Allora, volevo, visto che stiamo andando verso la conclusione, gli ultimi 30 secondi li assegno ancora, tra l'altro salutando anche Anna Maria Testa, che abbiamo lì abbandonato, spero non se ne abbia, però abbiamo raccontato il succo efficace, Anna Maria, della campagna per le emergenze in casa, giusto? Certo, spero di certo. Sì. Invito a scorrere la pagina, di nuovo è utile perché si trova un po' più sotto, sulla destra. Perfetto, grazie, grazie ad Anna Maria Testa, la lasciamo lavorare adesso, sempre come il solito, piena di idee, vulcano di creatività. L'iniziativa di Banca Mediolanum sui centesimi, di Fondazione Mediolanum, i piccoli centesimi, non mi ricordo bene come funziona, però Sara Doris sarà efficace nella comunicazione finale. Sì, è un'iniziativa che sarà attiva da domani per i clienti della Banca Mediolanum, centesimi che contano, proprio come dire, a sostegno, no, dell'impegno di un'azienda che prospera verso gli altri. Centesimi che contano, ovvero i nostri clienti, quelli che vorranno, quelli che avranno la sensibilità, perché sarà ovviamente una cosa assolutamente libera, una scelta libera, potranno devolvere una volta al mese i centesimi residui nel proprio conto corrente, quindi va da un minimo di un centesimo a un massimo di 99 centesimi al mese per un importo inferiore ai 12 euro l'anno, per cui è veramente un gesto molto piccolo. Poi ovviamente anche la fondazione farà la sua parte, non ci sarà solo la raccolta presso i nostri clienti, ma ci sarà anche la fondazione che ovviamente mette in campo le sue forze. Però mi sembrano veramente, proprio perché anch'io sono convinta che ci sia una grande grande sensibilità verso gli altri, questi piccoli gesti, pochi centesimi da tante tante persone insieme, veramente possono fare la differenza. Per il mare molti... è fatto di gocce, esattamente, esattamente. E è proprio le gocce così. Scavano la pietra, per cui alla fine ci si arriva a certi obiettivi. Valeria dalla provincia di Verona voleva fare un commento sulla campagna per la prevenzione HIV, so che a Nicoletta sta molto a cuore questo, non magari... si sente più nulla, ci scrive, ecco. Valeria, ma noi ne parleremo, ne grazie, parleremo Valeria, senz'altro. Per grazie. Questo spunto, grazie a Sara Doris, buon lavoro per tutte, complimenti, grazie a voi per l'ospitata, impegno. Grazie a tutti. Noi ritorniamo domani, che ne dici? Non ma so, sì, ma dai. Sì, dai, dai, torniamo anche domani. Buona giornata a tutti. Ascoltate, per il mese della digestione, Uliveto a 39 centesimi. Prezzo consigliato. Vi ha presentato Cuore e Denari.